poesia. Sotto la luna in bocca coperte respiro la mia libertà. Seguo i consigli del vento che corre, ma lui certe cose le sa.